Non ci sono più le mezze stagioni, con me Roberta Giordano e con i vostri commenti sulle notizie della settimana. E in questa puntata in compagnia di, signore e signori, Giordano Bruno Guerri, giornalista, scrittore, storico. Non perdetevi il suo punto di vista sulla manovra, sulla questione delle frequenze TV, sulla rimozione di Minzolini, sui vari fatti di cronaca di questi giorni. Dove? Ma non ci sono più le mezze stagioni. Sabato alle 14 su Radio 24. Anche sul canale 700 di Sky.